Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, 13, 35 minuti e 49 secondi, Italia in controluce, la cronaca italiana, secondo Radio 24. A distanza di circa un mese dal ritrovamento del cadavere di Elisa Claps, è attesa in questi minuti la consegna ai magistrati di Salerno dei risultati dell'autopsia sul corpo della studentessa uccisa nel 1993. Le conclusioni dell'autopsia interessano l'unico indagato, Danilo Restivo. Potrà poi essere definita la data dei funerali, che si svolgeranno comunque all'aperto. Il racconto da Potenza di Gennaro Grimolizzi. È una donna minuta ma determinata, la madre di Elisa Claps, Filomena Iemma. Il dolore per la scomparsa della figlia, avvenuta il 12 settembre del 1993, è stato lenito dal ritrovamento dei resti nella chiesa della Santissima Trinità. Ci sono voluti 17 anni per porre fine al dramma di una madre che, col trascorrere del tempo, ha rafforzato la convinzione di non poter più riabbracciare la figlia, ma veniva logorata dal pensiero di non avere una tomba su cui piangerla e deporre un fiore. La Chiesa della Trinità non ospiterà i funerali di Elisa. A manifestare questa volontà è stata proprio la signora Filomena, che ha annunciato funerali all'aperto. 17 anni nel sottotetto della chiesa, a due passi da casa, sono troppi per concedere anche lì l'ultimo saluto ad Elisa, inghiottita dal buco nero delle menzogne e dell'omertà. Elisa c'è stata per 17 anni in quella chiesa, è stata sopra, assistita alle funzioni, comunione, cresima, matrimonio, funerali. Forse hanno pensato, questo è il funerale di Elisa, ma Elisa, il suo funerale, l'avrà all'aperto, all'aria aperta. Non intendo far entrare più mia figlia nella chiesa, perché c'è stata per 17 anni. Quando avrò la convinzione che il tutto non è successo come io penso, allora sarà diverso. Danilo Restivo, da tempo residente in Inghilterra, è il maggior sospettato dell'omicidio della giovane. Su di lui si addensano pure i sospetti della polizia d'oltremanica per l'uccisione di Heather Barnett, vicina di casa dell'uomo di origini lucane. La Barnett è stata trovata sgozzata, con i seni asportati ed una ciocca di capelli tra le mani. Molti a Potenza ricordano la mania di Restivo di tagliare ciocche di capelli alle ragazze, ma chi indagava 17 anni fa fece ben poco per fermarlo. Il fratello di Elisa, Gildo Claps, invoca giustizia. In una lettera inviata agli organi di informazione punta il dito contro gli inquirenti che del 93 non si prodigarono abbastanza e critica la Chiesa per l'atteggiamento ondivago e poco cristallino. La Chiesa della Trinità venne frettolosamente ispezionata dalla polizia nel 2001, ma senza alcun riscontro. Però c'è tanta rabbia perché questo, dopo 17 anni, sono stati 17 anni lunghi di inferno, dove abbiamo denunciato più volte il fatto che eravamo certissimi che purtroppo l'epilogo di Elisa fosse stato tragico e purtroppo abbiamo avuto conferma. Se qualcuno pensava che la famiglia Claps si accontentasse di ritrovare il corpo, ha sbagliato. La famiglia Claps adesso comincia una nuova battaglia, che è quella di inchiodare i responsabili alla giustizia. I funerali di Elisa all'aperto saranno l'occasione per consentire un nuovo abbraccio ideale con la famiglia Claps, sostenuta negli anni da tante persone per bene, con un sorriso ed una parola di conforto. Altre persone, invece, hanno evitato che si facesse subito chiarezza sulla vicenda. Depistaggi ed insabbiamenti, frutto, come ha detto qualcuno, di un sistema untuoso e gelatinoso che caratterizza certi ambienti di Potenza, hanno impedito di avere risposte rapide, pregiudicando forse per sempre le indagini. Italia in controluce. La seconda storia viene da Niscemi, provincia di Caltanissetta. È il caso del radar militare della discordia. Ce lo racconta Giampiero Casagni. MUOS è l'acronimo di Mobile User Objective System, un sofisticato sistema militare di comunicazione satellitare in grado di controllare forze navali, aeree e terrestri in tutto il mondo. Il sistema, che emette onde del tipo UHF, funziona con 4 satelliti e 4 stazioni di terra, una delle quali dovrebbe essere realizzata in Sicilia, Niscemi, comune della provincia di Caltanissetta, al confine con quelle di Ragusa e Catania. Le popolazioni e gli amministratori di 13 comuni e 2 province guardano con preoccupazione alle onde elettromagnetiche e alla costruzione della base. Il sindaco di Niscemi, Giovanni Di Martino, spiega che l'impianto lo chiede che venga costruito la Marina statunitense. Il permesso è stato dato dal Ministero della Difesa. Per quanto ci riguarda come comune, siamo stati interpellati in quanto il sito insiste in un luogo, diciamo, all'interno della riserva orientata su Greta di Niscemi, che è stato classificato come sito di interesse comunitario dall'Unione Europea, e in quanto tale il Comune è in pratica competente ad emanare un parere sull'incidenza ambientale. Di Martino, impegnato in prima linea nella lotta alla mafia nel suo territorio, è fortemente contrario alla realizzazione del radar MUOS. Siamo contrari perché non c'è assoluta certezza da parte del mondo accademico e scientifico sulla innocuità delle onde elettromagnetiche sulla salute dell'uomo, e quindi fino a quando non ci sono certezze si deve applicare il buonsenso, dice, il principio della precauzione, che ci impone appunto di dire no alla costruzione di questo impianto. La base si trova a poco più di 3,5 km dal centro abitato, ma all'interno della stessa area insistono diverse fabbricati di seconda residenza o anche di residenza principale nella campagna circostante, e quindi c'è preoccupazione anche per questo motivo. Adesso i sindaci della zona sono pronti a tornare sul piede di guerra e a chiamare a raccolta le popolazioni. In passato sono state fatte manifestazioni, è stata fatta una marcia con un sit-in avanti i cancelli della base che attualmente esiste, dove dovrebbe sorgere questo impianto, e abbiamo mobilitato anche le istituzioni del comprensorio, più di 13 consigli comunali della parte sud-est, diciamo, orientale della Sicilia, e hanno espresso di queste preoccupazioni e hanno detto no alla costruzione. Adesso io ho convocato un'altra riunione di tutto il coordinamento dei sindaci proprio per individuare altre iniziative e altre lotte per dire no a questo impianto. Noi auspichiamo che da parte della regione siciliana e da parte del Ministero della Difesa venga posta la parola fine, diciamo, su tutto l'iter procedimentale e di questa vicenda. Italia in controluce. Renato Sati, triestino, regista e drammaturgo che viene da lontano. Prima l'esperienza al Piccolo Teatro con Giorgio Streller, poi l'incontro con Gabriele Salvatores e Elio De Capitani. Al Teatro dell'Elfo di Milano nascono i Comedians. Sono Paolo Rossi, Claudio Bisio, Bebo Storti, Silvio Orlando, Antonio Catania e molti altri. Nel 1995, in occasione del cinquantennale della Liberazione, dirige all'interno del Monumento Nazionale della Risiera di San Saba, l'unico campo di sterminio nazista in Italia, uno spettacolo chiamato Risiera di San Saba, la memoria dell'offesa. Una lettura scenica basata sulla testimonianza di sopravvissuti alle deportazioni e allo sterminio nazifascista. Da lì nasce la svolta del teatro civile di Renato Sati. Risiera di San Saba è stato il primo testo su cui io mi sono cimentato rispetto ai temi della memoria storica. Risiera di San Saba è stato l'unico campo, l'unico lager in Italia, tra le 2.000 e le 5.000 vittime, la maggioranza ostaggi civili, donne, vecchi, bambini che venivano portati dopo gli estremamenti fatti compiuti dalle SS, con l'ausilio delle camicie nere, dei fascisti nell'altipiano carsico. E diciamo che quel testo nasce anche da quello che è stato il punto di partenza di un terzo della deportazione nazionale, cioè Trieste, e ho lavorato grazie alle testimonianze di raccolte da Marco Kosovic, da Silva Bon e dall'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione, su quelle testimonianze, cercando di trarne un testo, diciamo così, significativo. Questo è stato il primo, diciamo così, testo di ambientazione di un tipo proprio storico, memoria storica. E poi, diciamo, con dei cambiamenti, cioè nel tentativo di rendere anche questo materiale adatto al teatro, tentativi anche incursioni nel comico, abbiamo parlato sia dei migranti, parlando della nave fantasma, di quella che è stata la più grande tragedia nel Mediterraneo dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè l'affondamento di una barca con 293 migranti a sud di Porto Palo, estremo sud della Sicilia.